Una notte degli Oscar davvero incredibile, come forse nessuno si sarebbe aspettato, e con una sorpresa che è stata più di una sorpresa, perché per la prima volta in una lunghissima decennale storia l'Oscar come miglior film è andato a una produzione non in lingua inglese. Il film Parasite di Bong Joon-ho, regista sudcoreano, a sorpresa, grande sorpresa di questa edizione, si è aggiudicato 4 Oscar, compresi i più importanti, quelli di peso, cioè il miglior film e la miglior regia. È stata una grande sorpresa, fra l'altro con un risvolto anche bolognese, perché Parasite, che aveva vinto anche la Palma d'Oro al Festival di Cannes, contiene una vecchia canzone di Gianni Morandi, In ginocchio da te, ovviamente Morandi anche lui contentissimo di questa vittoria. Fra l'altro Parasite negli Stati Uniti vedrà, già questo è un progetto che era già in corso prima degli Oscar, la realizzazione di una serie TV ispirata proprio al film, e con la produzione di Adam McKay con una serie appunto che verrà prodotta dalla HBO. Adam McKay, quello della Grande Scommessa e di Vice. Un film Parasite sconvolgente, che racconta la storia di una povera famiglia che con vari espedienti riesce a farsi assumere da una famiglia invece molto ricca per svolgere varie mansioni, e quindi questo tema dello scontro sociale è un tema che Bong Joon-ho, che sarà oggetto anche di una retrospettiva, un omaggio da parte della Cineteca di Bologna a partire da mercoledì, omaggio meritatissimo, che consentirà di vedere anche i suoi film precedenti. Fra l'altro Parasite tornerà anche nelle sale sull'onda degli Oscar, così come il film precedente di Bong Joon-ho. Ma dicevo che è stato una serata degli Oscar davvero sorprendente, che ha distribuito Oscar a pioggia, a differenza del film monopolizzatore delle statuine. Quest'anno c'è stata una distribuzione abbastanza salomonica, il che però ha finito un po' per scontentare un po' tutti, soprattutto quelli che erano i grandi favoriti della vigilia, in particolare Joker e 1917, che pure hanno avuto ovviamente dei premi, così come scontenti sicuramente saranno anche Martin Scorsese, che pure è stato citato e quindi omaggiato da Bong Joon-ho nel suo ringraziamento, e anche Tarantino, anche se appunto un paio di Oscar sono andati anche a Cera al suo film, compreso quello come miglior attore non protagonista per Brad Pitt, primo Oscar per Brad Pitt per C'era una volta a Hollywood. Dicevo che una serata che è scivolata piuttosto tranquilla, con molta musica, molte esibizioni, la formula degli ultimi anni, cioè quindi senza un conduttore fisso, con tante sottolineature per ormai dei limiti storici degli Oscar, la scarsissima presenza femminile, le pochissime registe, tanto che Natalie Portman si è presentata con una sorta di mantello addosso su cui aveva incisi i nomi di alcune delle registe che quest'anno secondo lei avrebbero dovuto essere candidate. Le battute di alcuni comici sulla scarsa presenza anche afroamericana, ma queste sono grandi questioni che restano naturalmente sul piatto e sul tavolo degli Oscar, ma non c'è dubbio che il messaggio, in una serata dove si è parlato pochissimo di politica, forse il più preciso, più puntuale in questo senso è stato Joaquin Phoenix, che nel suo discorso di ringraziamento un po' confuso ha citato anche una frase del fratello River, morto giovanissimo, ha parlato di tantissimi temi e e ovviamente ha parlato anche di politica, ma altrimenti sono stati Oscar appunto con poca politica, ma dove forse il segnale più forte è arrivato proprio da questa scelta davvero sorprendente di premiare un film non americano, non di lingua inglese, un film sudcoreano, un film che parla di lotta di classe, quindi davvero imprevedibile, e però un segnale ben preciso che Hollywood lancia naturalmente all'amministrazione americana, e che si può spiegare anche con un rinnovamento, un cambio generazionale. In questi ultimissimi anni c'è stato sono entrati nell'Academy Awards moltissimi nuovi elementi, alcuni di origine non americana, e questo credo che possa spiegare come mai si sia arrivati appunto a un risultato così davvero imprevisto. Per il resto, dicevo, invece, Oscar un po' per tutti, naturalmente tante nomination per alcuni film che hanno avuto però molto poco. Per quanto riguarda gli attori, un'ultima citazione: fra l'altro Parasite ha vinto anche l'Oscar come miglior film straniero, ma in questo caso è un premio, è diventato quasi un premio secondario. Dicevo, per gli attori invece si è tornati nell'alveo delle previsioni rispettate, con Joaquin Phoenix per il suo straordinario Joker, René Zellweger per un'altra performance ragguardevole, appunto l'interpretazione di Judy Garland nel film Judy, e poi Brad Pitt, già citato, e Laura Dern, figlia d'arte per il film di Noah Baumbach, fra l'altro uno dei due film che hanno consentito anche a Netflix di raccogliere degli Oscar per per questa edizione, Laura Dern appunto per Storia di un matrimonio, naturalmente una notte appunto che resterà sicuramente nella storia degli Oscar.